Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ritrovati da Maria Luisa Pezzali, quella di questa sera è una puntata speciale, una delle nostre puntate monotematiche. L'abbiamo realizzata a Vicenza Oro, il più grande salone europeo dedicato alla gioielleria e all'oreficeria, la più importante vetrina delle eccellenze nazionali e internazionali del settore. Insieme agli ospiti che ci sono venuti a trovare negli studi allestiti da Radio 24 a Fiera Vicenza, abbiamo parlato delle ultime tendenze del settore, dai materiali alle lavorazioni, passando per i canali di acquisto e le nuove abitudini dei consumatori. Signor Esmond! È giusta la grandezza. Oh, non sono mai troppo piccoli. Dici che è troppo piccolo, Dorothy? Di noccioli di pesca ne ho visti più grossi. Dicevo, se sta bene al dito. Oh, sì, proprio perfetto. Babà, mi hai fatto la bimba più felice del mondo. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Concedeteci un classico per iniziare a parlare di gioielli. Lo facciamo con il primo degli ospiti di questa puntata speciale, Federica Frosini, direttrice di Vio Plus, la più importante realtà editoriale di settore. In 30 anni di attività ha raccontato la storia della gioielleria italiana e internazionale. Ben trovata, Federica. Ciao Maria Luisa, grazie a voi per avermi dato questa opportunità di raccontare un po' cosa succede in questo mondo del gioiello oggi. Negli anni dei consumi completamente rivoluzionati, dei grandi cambiamenti che stanno attraversando il mondo dei consumi tra neosobrietà, sostenibilità, pragmatismo, partirei con una provocazione: ma il gioiello va ancora di moda? Ebbene sì, il gioiello va ancora di moda, va sempre più di moda, devo dire. C'è stata una grande, ed è in atto, una grande rivoluzione nella modalità proprio di vivere il gioiello. Oggi il gioiello non è più lontano, ma si sta riavvicinando al pubblico. Proprio durante questa settimana del gioiello, che amo definirla così, no? Qui a Vicenza Oro, quello che ho notato è proprio questa, una sempre maggiore, chiamiamola democratizzazione da parte delle aziende anche alto di gamma nell'ampliare il pubblico di riferimento ed avvicinare sempre di più i giovani. Oggi chiaramente c'è necessità, no, di far sì che anche le generazioni più giovani, parliamo sempre di millennials, generazione Z, capiscano, no, il valore del gioiello, ovviamente con una capacità di spesa più misurata. Allora, in che modo riapriamo le porte delle gioiellerie? Perché anche questo è un elemento estremamente importante e molto sensibile, di grande attualità in questo momento. Quindi il principale elemento, diciamo, punto, no, da toccare, evidenziare, dove andare a lavorare, è il prodotto. Le aziende alto di gamma o anche le piccole e medie imprese che comunque fanno un prodotto di fine jewelry, quindi prezioso, stanno cominciando non a toccare le loro collezioni più, diciamo, di punta, di core business, ma stanno arricchendo le loro collezioni con un prodotto che viene definito, ma a livello internazionale, la demi-fine, no? Questa demi-fine jewelry che ha un entry price magari sotto i 1000 euro, magari partiamo anche da 200 euro, ma parliamo di un prodotto prezioso, di un gioiello a tutti gli effetti. Parliamo di oro 18 carati, parliamo di diamanti, parliamo di zaffiri, di pietre di colore preziose. Questo è un elemento molto importante, anche perché riflette una richiesta, una domanda da parte dei ventenni di ritornare un po' ad indossare il gioiello, che è quello che noi definivamo della comunione, che magari abbiamo nel cassetto, no? Non so come dire. Oggi lo rivogliono, ma dove posso trovare il cerchiettino d'oro? Sì, lo vogliono perché magari ne mettono 5 tutti insieme, magari lo vogliono con quell'elemento in più che fa la differenza, no? Perché in questo grande paniere di democratizzazione, di inclusione, di genderless, che oggi sono di grandissima attualità, perché le linee separate maschile e femminili non esistono più, quindi l'uomo può indossare un bracciale di diamanti, che a differenza della donna, l'uomo vuole mostrarlo. Cioè noi magari lo compriamo da sole, per cui c'è anche questo aspetto molto molto molto importante. Peraltro è un tema che è venuto fuori in questi giorni, giusto con una chiacchierata estremamente piacevole e interessante con Steven Lussier, che è vicepresidente di The Beers, e il fatto che chiaramente la donna compra il gioiello da sola, soprattutto negli Stati Uniti questa è una tendenza fortissima, quasi arrivando a livelli del bridal, no? Cioè il diamante per l'engagement rings per il mondo del bridal, ma in realtà il secondo asset, no, nel mondo dei diamanti è proprio il fatto che la donna compra da sola, si compra finalmente da sola un diamante. Se non c'è nessuno che glielo regala, ha la possibilità di farlo, ma sia appunto una donna che abbia una capacità di spesa importante, sia che non l'abbia, oggi fortunatamente il mercato ti dà la possibilità di accedere a un gioiello con prezzi molto più affordable, insomma, più accessibili. Parlando di etica, perché sì, parliamo di una generazione sì, molto sensibile sì, a questa tematica, si fa un gran parlare dei diamanti sintetici, ecco. La tua visione su questo guarda tema. Hai toccato anche qui un punto molto molto sensibile, di grandissima attualità. Il quesito è natural diamonds o man-made, no? Lab grown, come vogliamo definirli. In realtà uno non esclude l'altro, sono delle opportunità, perché chiaramente poi l'ultima parola ce l'ha il consumatore finale. C'è una richiesta proprio di ampliare sempre di più la possibilità di accesso al gioiello, quindi un diamante da laboratorio è un'opportunità in più, non leva nulla a un diamante naturale. Chiaramente il tema della sostenibilità è molto discusso, perché c'è chi sostiene che un lab grown diamond sia una opportunità per far sì che l'approccio sia più sostenibile, ma in realtà non dimentichiamoci quante opportunità offre l'industria del diamante per le popolazioni locali dei minatori. Non se entro nello specifico, appunto, se gestita in modo etico. Etico, sostenibile a livello di produzione, ma anche a livello chiaramente di attenzione all'ambiente, di attenzione chiaramente all'aspetto sociale. E un altro punto molto importante che è emerso in questi giorni è proprio il supporto alla piccola e media impresa nella due diligence, quindi come le piccole e medie imprese possano, senza troppo dispendio chiaramente economico, cosa possono fare, cosa devono fare per diventare sostenibili senza stravolgere troppo le loro capacità di spesa. C'è poi un problema anche di standard comuni e di certificazioni, perché l'informazione al consumatore possa essere un'informazione omogenea che dia dei punti di riferimento per le decisioni di acquisto. In che scala di valore siamo un diamante sintetico rispetto a una media? Perché sappiamo che il mondo dei diamanti è infinito. Allora, il punto secondo me principale, che è ancora un po' critico, è il fatto che non c'è molta comunicazione. Il consumatore viene informato su cosa vuol dire lab grown, che non è sintetico, perché nel laboratorio si ricrea un diamante con le stesse identiche caratteristiche di un diamante naturale. Ma finché... che gap di prezzo abbiamo medio? Ah, come gap di prezzo? 10 volte? 10 volte, sì. Forse anche un pochino di più. In questo processo di democratizzazione c'è una grande contaminazione anche tra settori che prima non si parlavano. Io citerei la moda da una parte e la tecnologia dall'altra. Assolutamente. Che sta incontrando il mondo. Guarda, dici benissimo, siamo in una fase in cui le sinergie, la trasversalità dominano. Di recente, che era novembre, Giorgio Armani ha lanciato la sua primissima collezione di alta gioielleria. Prima c'è stato anche chiaramente Dolce & Gabbana, per non citare chiaramente Chanel, che è uno storico ormai dell'alta gioielleria. Quindi quanto anche l'attenzione di storici brand moda abbiano nei confronti del settore della gioielleria e chiaramente la dice lunga sul fatto che chiaramente sono due mondi che si stanno sempre più mescolando. Non così da meno la tecnologia abbinata al gioiello, fondamentale oggi. Parlavo di recente oggi proprio con il titolare di un'azienda presente qui a Vicenza Oro, che è la Serafino Consul. Loro hanno brevettato qualche anno fa questo sistema. Praticamente tu con un anello hai la possibilità di avere 20 misure. Questo sistema brevettato, ingegneristico, quindi c'è proprio l'ingegneria meccanica messa a disposizione della gioielleria. Parliamo di un gioiello prezioso in oro e diamanti, quindi in questo caso tu hai un anello più di 20 misure E allo stesso modo hai la possibilità invece con un anello di avere anche un bracciale. Questo anello ha un particolare meccanismo interno che diventa un bracciale misurabile. E poi c'è anche il fatto del gioiello trasformabile, cioè l'alta gioielleria, le grandi maison di alta gioielleria da Van Cleef, Chaumet, Cartier negli anni hanno sempre proposto dei pezzi di alta gioielleria trasversali, no? Tu hai un collier con un pendente che magari puoi staccare e diventa una spilla. Ecco, oggi anche le aziende di gioielleria preziosa, quindi parliamo sempre di una fine jewelry, stanno replicando questo concetto in maniera tale che tu, acquistando un pezzo, abbia la possibilità di averne in realtà due o più di due, e anche per una questione di multi-occasionalità. Io mi metto un gioiello la mattina e la sera va bene lo stesso. Un aspetto interessante oggi è che col gioiello ci si diverte, cosa che magari fino a qualche tempo fa onestamente era poco concesso. Grazie a Federica Frosini per essere stata con noi. Grazie Maria Luisa, un piacere. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte continueremo a indagare i segreti di questo mondo. Tra pochissimo. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Essere e avere. Ma ti sei bevuto il cervello? Ci siamo visti un paio di volte, che fai? Mi regali un anello? Non so nemmeno se ci rivedremo ancora. È per questo. Così anche... se non ci vedremo più, saprai che sei la donna della mia vita. Alessio Boschi è uno dei designer di alta gioielleria selezionati quest'anno per The Design Room, il laboratorio di sperimentazione e creatività che ospita i pezzi più esclusivi e ricercati di Vicenza Oro. Ben trovato Alessio, grazie per aver accettato. Grazie per ospitarmi in questa bellissima cornice e grazie per avermi scelto. I tuoi gioielli sono gioielli incredibili, importanti, complessi, barocchi, pieni di sorprese anche. Sì. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andarli a cercare, a vedere in rete. Ecco, raccontaci come nascono. Nascono da un'esperienza. Tutto deve essere ricollegato a quello che è il background di quel gioiello, per collezioni, per storie, osservando la natura, come nella collezione Naturalia, dove ci sono fiori, animali e fenomeni naturali, o nella collezione Thalassa, che in greco significa mare, quindi le creature marine, il mondo sommerso incredibile, dei coralli, delle creature che popolano la barriera corallina. E poi la mia collezione preferita, che è storica, che è una mega collezione, perché poi si suddivide in sotto collezioni a seconda dell'apporto storico a cui attingono, come per esempio la collezione Mogal Parfum, i profumi dei Mogal, fatta di perle keshi e motivi floreali che ritroviamo negli affreschi, nei tappeti che possono essere anche i tappeti persiani e nelle decorazioni dell'impero Mogal, oppure la collezione delle historica cities, cioè le città storiche, e qui parliamo dell'Italia soprattutto, o la collezione di quest'anno, per esempio, che invece si chiama Le Sette Principesse, una storia scritta nel 1197 da Nizam de Gange, ed è una storia che ci parla della Persia. In un momento dove forse dovremmo ricordarci di più quali sono alcuni dei nostri rapporti con questi paesi con cui spesso ci scontriamo. Sono tutti pezzi unici? Allora, la mia struttura creativa specialmente il colore, la multifunzionalità quando è possibile, la possibilità di giocare perché l'elemento giocoso della sorpresa, perché io sono romano e quindi questo elemento ludico delle nostre città, no? Ti ritrovi attraverso un piccolo vicolo, improvvisamente in una di queste fontane rimani sbalordito. Questo elemento penso che sia parte del mio DNA. E poi l'elemento principale, che è quello di cui parlavo prima, che dietro ogni creazione ci sia sempre una grande ricerca che diventa la storia di questo gioiello, che è l'anima del gioiello stesso. E quindi c'è una grande parte di pezzi unici nella mia collezione. E poi c'è una specie di serie limitata da 1 a 10, perché in arte da 1 a 10 rimane sempre l'unicità, e quindi un pezzo che può essere declinato in 10 variazioni di colore, non necessariamente tutte insieme, ci possono volere anche anni, con anche dei piccoli dettagli che possono cambiare. Quindi la signora o il signore che acquistano uno dei nostri pezzi troverà difficilmente o mai la stessa creazione nello stesso party, per esempio. E poi c'è una piccola collezione che invece è più da battaglia e che cerca di mantenere almeno una parte delle caratteristiche che troviamo nelle grandi creazioni senza avere dei costi eccessivi, quindi più facile da indossare, forse più adatta ai giovani. Hai un elemento, un materiale, una lavorazione del cuore? Non una. Mi piace mettermi alla prova, mi piacciono i materiali, mi piacciono i colori, mi piacciono le tecniche, e questo è anche il motivo per cui alcuni dei nostri pezzi richiedono mesi di lavoro, perché per me non esiste una cultura, non esiste un paese, ma esistono le eccellenze. Le eccellenze possono essere ovunque. Per esempio, nella nostra collezione delle Sette Principesse ho presentato qui a Vicenza un anello che è parzialmente realizzato a Roma da uno dei più grandi incisori romani di pietre, che lavora anche con dei grandi brand. L'anello in generale è stato realizzato dal mio orafo armeno incredibile, che ha una manualità unica, e il piccolo pompon che mi permette di tirar fuori da questo anello un libro è stato dinamico. Sì, questo anello si apre. Viene da Jaipur, perché sembra una parte di un gioiello Mughal. I Mughal sono stati influenzati dai persiani, quindi c'è anche una liaison culturale. E poi esce fuori questo libro in palladio puro, che al momento è alle stelle, un metallo alle stelle, però io l'avevo utilizzato sia per un discorso cromatico che per il fatto che è più leggero dell'oro, perché già l'anello è abbastanza grande, impegnativo. Importante. E quando apri questo libro ci sono i ritratti di sette principesse realizzati da un magnifico e incredibile miniaturista persiano, Arash Groyan, che ho fatto collaborare con noi per questo pezzo, e che naturalmente c'è anche la sua firma, perché per me è importantissima la paternità dei vari artisti che lavorano in un gioiello. Ti voglio fare un'ultima domanda. Creatività sostenibile è il tema di quest'anno. Sostenibilità, quindi eticità nei materiali, nelle lavorazioni, anche nel rispetto di chi le lavora, ma anche direi la capacità di non perdere niente. Voi siete un settore che in tema di antispreco può insegnare a tutti che cosa vuol dire aver cura anche degli scarti di lavorazione. Guarda, è un tema a cui sono particolarmente affezionato, perché sono un osservatore della natura. Per me il rispetto della natura è tutto. E ho partecipato a novembre ad una manifestazione, si chiama The Protagonist, insieme a Vogue, e sono stato scelto tra i 15 designer per presentare delle creazioni che avessero come tema la sostenibilità. Ho presentato questo anello che rappresentava un iceberg che si scioglieva, realizzato con oro riciclato. L'iceberg si apriva, l'anello si apriva come un uovo di Fabergé. Tra l'altro ci sono dei dettagli che sono anche stati presi dall'uovo d'inverno di Fabergé, che è conservato a San Pietroburgo, e dentro c'era una mamma orso e due piccoli che giocavano, separati da due pezzi di ghiaccio realizzati da dei microcristalli incisi con questo avorio vegetale. La stessa cosa quest'anno, l'avorio vegetale è diventato il pretesto per creare dei fiori, un monorecchino che è la riproduzione quasi perfetta tratta di un frangipane fatto con questi petali, ognuno inciso da questa noce del Sud America che è il tagus, il taguanat, che è l'avorio vegetale. Questi petali sono movibili, come lo è il vero fiore. I diamanti sono sustainable, vuol dire che sono rintracciabili, e l'oro completamente riciclato, e c'è una parte di legno dietro questo orecchino, che è la parte che più morbida, che si inserisce dietro l'orecchio, un legno riciclato, ed è imbevuto di olio di frangipane completamente naturale. È tutto realizzato con i criteri della sostenibilità. E poi ci sono anche altre cose. Beh, io sono incantata e sicuramente abbiamo trasmesso questo incanto anche ai nostri ascoltatori. Grazie veramente. Grazie ad Alessio Boschi per Grazie essere stato con tutto. Noi. Il consumautore. Ritroviamo anche a Vicenza il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Ben trovata Luisa in questa situazione nuova. Evidentemente anche per te, per voi Francesco, il mondo della gioielleria è un territorio d'osservazione interessante. In chiusura tornerei con te dal punto da cui siamo partiti con il primo ospite di questa puntata speciale. È una sorta di provocazione. Vanno ancora di moda i gioielli? Fanno tendenza? I gioielli tornano di moda proprio perché i consumautori vogliono segnare con delle presenze forti, simboliche, di grande bellezza, di grande prestigio, le proprie ritualità che rispetto al passato sono molto più personali e soggettive. Pensiamo a come sono cambiate le ritualità collettive, i battesimi, le cresime, gli stessi matrimoni. Diciamo, tutto questo evidentemente è meno forte rispetto al passato, ma pensiamo invece a quanto l'esistenza di ciascuno è segnata da momenti importanti, anche se sei giovane. Ad esempio, la festa dei 18 anni torna ad essere per molti ragazzi un momento anche importante di dono da segnare, ed è qualcosa di nuovo rispetto al passato, perché sono anche molto giovani i ragazzi interessati, diciamo, a forme di gioiello che certo non sono quelli classici. Al di là della capacità di spesa, non è questo il punto che voglio toccare, è cambiata la percezione del valore? Se sì, in che modo? È cambiata proprio perché sicuramente meno status classico, ed è molto più un messaggio, che può essere un messaggio d'amore, che può essere un messaggio che si dà a se stessi, perché sappiamo quanto l'autoconsumo, soprattutto femminile, sia aumentato. Oggi le donne non aspettano più che sia l'uomo a regalare il gioiello, ma lo scelgono. No, lo acquistano. In qualche modo il gioiello è diventato un medium, un supporto per esprimere qualcosa di se stessi, per lanciare un messaggio. Sì, perché rientra in quella dimensione che spesso noi affrontiamo insieme, che è del riconoscimento. Quindi essere riconosciuti dagli altri, riconoscere l'altro attraverso un oggetto, appunto in questo caso anche simbolico, visibile, perché evidentemente si deve vedere, e che è un oggetto di stile, ma nello stesso tempo anche di sensibilità personale, soggettiva. In che misura il tema dell'etica, della tracciabilità che abbiamo visto emergere in modo così prepotente in quest'ultimo periodo nel mondo del food soprattutto, ma in tanti altri settori, guiderà e influenzerà il mercato? Influenzerà molto. Può sembrare un settore lontano da questi temi, ma invece lavorando anche per aziende molto importanti del lusso che si stanno ponendo questo tema, pensiamo ai diamanti, pensiamo all'estrazione dei diamanti, pensiamo al rapporto con i vari territori. Sicuramente anche qui il processo che c'è alla base della diciamo realizzazione del prodotto è e sarà sempre più importante, quindi non solo la bellezza finale del gioiello, ma anche il modo in cui tutto questo è stato realizzato, con un interesse di chi acquista molto più importante rispetto al passato. Quindi torna protagonista anche l'informazione al consumatore. L'informazione, e direi anche proprio la condivisione in alcuni casi, e la trasparenza. La trasparenza, che è anche spesso una qualità finale dell'oggetto, la sua luminosità deve essere anche una luminosità etica. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia a Vicenza ad Andrea Roccabella e a Milano a Carmelo Lauricella. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.